dell'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, eccoci qua in diretta con l'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale per raccontarvi l'Europa da tanti punti di vista diversi, un programma in collaborazione con Euronet Plus, euronetplus.eu è il portale del network al quale apparteniamo, portale che vi consiglio di visitare perché ogni giorno ci sono dossier, ci sono approfondimenti, ci sono notizie sulla nostra Europa, tutto ciò lo potete trovare anche sul nostro sito radio24.it, continuo con le piazze virtuali dove potete incontrarci, in particolare Twitter e Facebook, Euronet Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddia, i nostri account bacheche virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi partiamo dal Parlamento Europeo per capire cosa succede. È appena stata presentata una sorta di relazione sui 5 anni di attività della Commissione per le petizioni del Parlamento, ma al Parlamento Europeo succede anche questo. Chissà qual è la verità, perché nel cuore forse sa quello che fa, però il potere è una poltrona comoda. Un uomo corre nella notte nella via, un altro lo rincorre, non sai che cosa sia. È il primo che ha rubato, il secondo ruberà. Se vuoi aiutare il buono, tra loro chi sarà? La verità. Chiama Tiziano Motti, europarlamentare dell'UDC, ha convocato a Strasburgo una conferenza stampa e ha presentato il suo singolo, La Verità, così per anticipare l'intero album Siamo Tutti Assolti, che verrà presentato il 29 aprile. E vabbè, l'onorevole in chiave rock, c'è anche questo video dove si presenta nella sua doppia anima. Le finalità, almeno quelle, insomma, sono ottime, perché i proventi delle vendite, perché pensa anche di venderlo, insomma, e andranno e saranno indirizzate ad alcune associazioni che tutelano i bambini. Ma torniamo seri con un collega dell'onorevole Motti. Diamo il benvenuto all'onorevole Erminia Mazzoni, che è presidente della Commissione per le petizioni, con la quale andiamo a scoprire questo mondo, che è un mondo che lega, è il mondo forse uno dei veramente punti di unione tra l'ufficio, tra il palazzo e tra le istanze dei cittadini. Buongiorno onorevole, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie. Ha ballato un po' sul pezzo di Motti? No. Ma sì, mi sono agitata, sono in macchina, sto viaggiando, quindi insomma ho cercato di fare il possibile stando seduta in macchina. Onorevole, avete fatto una sorta di sunto di quello che è successo in questi 5 anni, dove le petizioni sono diventate veramente uno strumento utilizzato dai cittadini. Più di 10.000 petizioni in 5 anni, un record positivo. Intanto, che cos'è la petizione, per entrare in argomento e cercare di chiarire subito la cosa ai nostri ascoltatori? Per partire dando i numeri, dico che 10.000 sono solo le petizioni nuove che sono arrivate in questi 5 anni, ma ne abbiamo aperte all'incirca altre 4.000 che vengono dalla precedente legislatura, quindi vogliono dire altre 4.000 questioni che i cittadini europei hanno posto all'attenzione del Parlamento. La petizione è, lo diceva prima, perfettamente lo strumento che mette in contatto il cittadino con tutte le istituzioni europee, e a volte anche per il tramite delle istituzioni europee li riconcilia con le autorità locali e nazionali, perché molto spesso ci capita che una petizione abbia ad oggetto una non corretta applicazione della normativa europea in relazione a fatti che competono a una regione o a un governo nazionale, e quindi noi chiamiamo in audizione anche i responsabili di questi enti locali o dei governi nazionali perché parlino con i cittadini e rispondano direttamente durante le sessioni della nostra commissione alle istanze che i cittadini formulano. La pagina per presentare le petizioni è sul sito europarl.europo.eu, ci sono tutte le dritte e tutti possono fare petizione, lo può fare un cittadino, un'associazione, un gruppo di cittadini, un'organizzazione più strutturata, è uno strumento che tutti possono adottare. Assolutamente sì, purché siano cittadini europei, quindi che ci sia il requisito della cittadinanza, o che siano soggetti giuridici o progetti collettivi con una riferibilità europea e che la petizione abbia ad oggetto delle materie di competenza dell'Unione Europea. Il cittadino che mi propone di sanzionare lo Stato italiano, le cito un esempio concreto, perché ha riordinato le strutture sanitarie, le strutture ospedaliere in Italia, è chiaro che non può trovare l'ascolto della Commissione perché la materia è di competenza nazionale. Quindi noi non possiamo intervenire, noi per quanto riguarda il settore interveniamo solo sulla garanzia della tutela del diritto alla salute del cittadino, poi la distribuzione logistica delle strutture sanitarie non attiene alla nostra competenza, per il resto noi rispondiamo a tutti i cittadini. Il caso Ilva, la terra dei fuochi, l'emergenza rifiuti in Campania, i precari della scuola sono alcuni dei punti, degli argomenti che avete citato anche nella conferenza stampa, insomma, che avete, in cui avete presentato questi numeri. È un modo la petizione per cercare di ampliare l'osservatorio sui problemi locali, ma la petizione cosa diventa? Qual è la conseguenza di una petizione? Ha ricadute concrete? Pronto, onorevole? È caduta l'onorevole? Allora, la recuperiamo al volo, cogliamo l'occasione, ci fermiamo un euro post-it e ci fermiamo per il traffico, poi torniamo immediatamente dall'onorevole Mazzoni. Europost-it. I nostri giovani credono nell'Europa. Più del 38% dei giovani ha un giudizio positivo su un'Europa più unita, nel senso di Stati Uniti d'Europa, e per quasi il 62% di loro l'Europa è un'opportunità. Questo è quello che emerge dai dati del rapporto giovani dell'Istituto Giuseppe Toniolo, raccolti da Ipsos a febbraio 2014 su un campione rappresentativo di 1638 giovani italiani tra i 18 e i 29 anni. Dai dati emerge la fiducia delle nuove generazioni nell'Europa, ma anche l'insofferenza verso un'Unione che parla solo di austerità e vincoli di bilancio. La ricerca sarà presentata al convegno L'Europa è ancora il nostro futuro, organizzato dalla Diocesi di Milano, in due sessioni, il 16 e il 30 marzo a Villa Cagnola di Gazzada, Varese, dalle 16 alle 18.30. Per conoscere i relatori, il programma e le altre informazioni, cercate la notizia sul portale news della Diocesi di Milano, in crocinews.it. L'altra Europa. Eccoci qua ancora all'altra Europa, siamo sempre con l'onorevole Erminia Mazzoni, presidente della Commissione Petizioni del Parlamento Europeo. Onorevole Mazzoni, le chiedevo, hanno qualche conseguenza pratica poi queste petizioni? Ma voglio dire, gli effetti in alcuni casi si sono avvertiti, anche se noi non abbiamo poteri esecutivi, quindi non possiamo intervenire direttamente. Noi facciamo un'attività di pressione, amplifichiamo la voce dei cittadini, ma dico, nel caso della terra dei fuochi, l'attività di Don Patriciello, ormai famoso, è partita con la sottoscrizione di una petizione che è arrivata al Parlamento Europeo un anno e mezzo fa. Vescovi, il vescovo e i parroci della diocesi hanno portato la voce dei cittadini a Bruxelles, sono venuti in audizione, da lì è partita un'attività di stimolo alle autorità nazionali, abbiamo parlato col governo, con la regione, con il commissario, abbiamo fatto una missione investigativa sul posto, abbiamo interpellato il commissario Potocnik all'ambiente, il commissario Hahn, per riuscire a autorizzare la utilizzazione di fondi europei per le bonifiche. Abbiamo, diciamo, creato un presupposto per affrontare il problema e quello che oggi noi stiamo vedendo a livello nazionale si può dire un successo anche del nostro lavoro, perché non si è più abbassata l'attenzione su un dramma che non nasce oggi ma è vecchio di oltre 20 anni, quindi forse serve a qualcosa in termini concreti, a dire l'autorità europea, il Parlamento europeo, perché si faccia carico del problema del singolo cittadino e lo renda un problema sociale, un problema di tutti. Certo, migliorare i tempi, insomma, e semplificare anche un po' le burocrazie per la procedura di ammissione delle istanze sono così un po' i prossimi obiettivi, gli obiettivi della, per la prossima legislatura, no? Infatti la procedura è l'elemento debole, perché consideri solo il fatto che ogni istanza che viene da un cittadino, quindi ogni petizione, deve essere immediatamente tradotta in 24 lingue, nelle 24 lingue dell'Unione. Immagini i tempi solo per incominciare ad esaminare un'istanza del cittadino. Certo. Quindi è evidente che su qualcosa la burocrazia europea deve cedere, perché per me, per l'esperienza che ho fatto, la cosa più importante è rispondere ai cittadini, che sono ancora, voglio dire, attraverso queste petizioni esprimono ancora una speranza, mm-hmm. e non è possibile tradirla perché ci blocchiamo dentro i palazzi. Quindi è importante che questo strumento di democrazia, che tra qualche mese compie 20 anni, sia realmente utilizzato per riavvicinare i cittadini non tanto e solo alle istituzioni europee, ma alle istituzioni in genere, alla politica. In un momento come di crisi come questo, credo che sia un passaggio fondamentale. Grazie davvero, onorevole Mazzoni. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro, buon sabato, grazie. Prossimo argomento. In queste ore, in questi giorni, 1500 giovani selezionati tra le università di tutto il mondo, giovani con aspirazioni diplomatiche oppure che sono semplicemente interessati alla politica internazionale, sono riuniti a Roma per il Rome Moon. Stanno simulando il dibattito di uno più commissione ONU, cercando di trovare soluzioni soluzioni comuni ed efficaci sui temi in agenda. Il macro tema è oltre il 2015, una nuova agenda per lo sviluppo. È la quinta edizione di questo modello, di questo nuovo model United Nation, che è una sorta di simulazione di quello che è il funzionamento di alcuni organi. Tutto ciò al patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, della rappresentanza in Italia della Commissione Europea e delle regioni Lazio, Valle d'Aosta, Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Lombardia, Abruzzo e Sicilia. Con noi due dei partecipanti, diamo il benvenuto a Riccardo Pizzino, studente di economia a Torino. Ciao Riccardo. Buongiorno a tutti. Tu sei delegato della Slovenia nella simulazione del Consiglio dell'Unione Europea, ma fra pochissimo sì. Ci spiegherai il funzionamento del tutto. Diamo il benvenuto anche a Luminita Butuk, moldava, studentessa di studi internazionali dello sviluppo e della cooperazione, se non erro delegata del Lussemburgo per la simulazione nella FAO. Ciao Luminita. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora Riccardo, spiegaci un po' cosa state combinando e com'è anche il gioco delle simulazioni, perché tu sei italiano ma sei delegato per la Slovenia, e come funziona il tutto? Sì, allora in pratica siamo qui alla Luis Guido Carli, l'Università di Roma, e stiamo discutendo su due topic molto importanti. Cioè, allora, il primo riguarda l'allargamento dell'Eurozona ai paesi che ancora non hanno aderito, e il prossimo è sui Bitcoin, quindi dove ancora non c'è una legislazione precisa, e stiamo applicando tutte le regole che applicherebbe una commissione ONU nell'approvare, nel discutere e nell'elaborare un working paper e poi una risoluzione finale comune a tutti gli stati. Quindi è una sorta di grande gioco di ruolo, state facendo finta di essere qualcuno di diverso da voi, però applicando quelle che sono le dinamiche e le procedure all'interno delle Nazioni Unite. Voi nel vostro piccolo lo fate, divisi per commissione, divisi per istituzioni. Tu perché rappresenti la Slovenia? Allora, io ho fatto richiesta appunto di rappresentare la Slovenia perché mi interessava appunto rappresentare un paese che è vicino a noi, però che magari molti non conoscono. Mm-hmm. E poi sicuramente approcciarsi, mettersi nei panni di uno sloveno, di un delegato sloveno, è molto interessante. Credo sia una ricchezza per questo modello United Nations, anche perché come lei sa sicuramente, parliamo anche in inglese, quindi è un valore aggiunto. Certo. Ed è una cosa molto bella, secondo me. Lumitina, tu, Luminita, sbaglierò il tuo nome più volte questa mattina, ti ringrazio, scusami. tu sei studentessa di studi internazionali dello sviluppo e della cooperazione, dove studi? A Torino, all'Università degli Studi di Torino. E sei delegata del Lussemburgo nella simulazione FAO, di cosa ti stai occupando? Sì, visto che 2014 è l'anno dell'agricoltura familiare, sì, all'interno della FAO si discutono due importanti problemi. E quali sono? La prima è la produzione che possa essere migliorata attraverso delle tecniche di farming, chiamate così, sostenibili, sì, per assicurare una, diciamo, una sicurezza alimentare. E il secondo topic tratta dell'urban farming, oppure dell'agricoltura familiare, e come si possa questa sviluppare in paesi sviluppati e in paesi meno sviluppati. Ma al di là dei singoli argomenti, che sono molto specifici e molto importanti, lì date una visione che anche è extraeuropea, no? Perché comunque sono, esatto, istituzioni che vanno anche al di là dell'Europa. Ma qual è il valore concreto di questa simulazione? Al di là dell'esperienza personale, possono uscire contenuti utilizzabili poi? Certo, l'obiettivo del tutto è di favorire il dialogo e il confronto con realtà diverse. Questa è un'esperienza pratica che consiglio a tutti gli studenti, perché si scopre sul campo il lavoro concreto di un delegato all'interno dell'organizzazione Umbrella Organization, quindi dell'ONU, in questo caso io come rappresentante della FAO. Quindi gli studenti prima di tutto fanno una ricerca, applicano le loro competenze di public speaking, mediazione, poi cercando con tutti di prendere decisioni, di creare una risoluzione comune sui topic che abbiamo in agenda. E questo evento stimola, sensibilizza il legame tra la società civile e le organizzazioni internazionali. In questo caso studenti da tutto il mondo, 1500 studenti e ONU. E quindi, insomma, tutto questo per diventare cittadini attivi e far loro capire l'importanza delle decisioni politiche che i diversi soggetti internazionali, come Stato, organizzazioni governative, non governative e in primis l'individuo, possono prendere. Romemun.org è il sito per conoscere nei dettagli la simulazione. Riccardo, quando si concluderà il tutto? Lunedì? Allora, la simulazione si concluderà lunedì e avremo la cerimonia di chiusura presso Italy, quindi vicino Roma Ostiense, come l'anno scorso, quindi sicuramente poi alla fine per incorniciare tutto questo bel lavoro, che comunque alla fine ci dispiacerà anche finire in così pochi giorni, perché leghiamo molto anche tra noi, nonostante le differenze culturali e linguistiche. Immagino. Cosa ti porterai a casa da tutto questo? Già lo hai percepito? Sicuramente mi porterò dentro tanti valori, tanta cultura e tanta conoscenza delle altre nazioni, ma soprattutto tanta stima e tante amicizie che continuerò a coltivare nel tempo tramite i social network, quindi Facebook o ad esempio Skype. La stessa domanda ad entrambi, risposta sintetica. Riccardo, cosa farai da grande? Allora, innanzitutto penso di finire a studiare, poi vedremo. Ancora le idee chiarissime non le ho, ma sicuramente qualcosa che possa darmi soddisfazione, possa dare soddisfazione al nostro paese. Ok, invece secondo me Luminita c'ha già le idee chiare. Cosa farai da grande, Luminita? Ambasciatrice della propria cultura. Vedi, lo sapevo, proprio era già pronta. Grazie davvero, complimenti a voi. Salutateci anche gli altri 1500 ragazzi che con voi stanno vivendo questa bellissima esperienza. Ciao, grazie a voi. Noi un euro post-it, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo qua in diretta con l'altra Europa. Euro post-it. Borse di studio ISPI. L'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, bandisce una borsa di studio di 1.200 euro complessivi, con decorrenza dal 1 aprile 2014, per una posizione di Research Trainee nell'ambito dell'Osservatorio Mediterraneo e Medio Oriente. Per partecipare occorre avere non più di 28 anni, una laurea in scienze politiche o discipline affini, conoscere bene l'inglese ed avere una conoscenza di base della lingua araba. Affrettatevi a mandare la candidatura perché scade il 16 marzo. Per fare la domanda andate su ispionline.it nella sezione Lavorare in ISPI. L'altra Europa. Hi, my name is Anna. I'm a researcher in the field of engineering. I moved to Germany 5 months ago and I wanted to advance my career and experience life and work in a foreign country. Eurexcess jobs. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, ci trovate su Facebook e su Twitter, dove caricherò anche il video della canzone dell'onorevole Motti con cui abbiamo aperto questa puntata. È Orient Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddia, le coordinate. Quello che avete sentito era un video di presentazione di questo tour, come funziona Euraxess. Scopriamo subito che cos'è, lo facciamo con Natalia Paganelli della Fondazione CRUI, conferenza dei rettori delle università italiane e coordinatrice di Euraxess Italia. Ciao e benvenuta all'Altra Europa. Grazie, buongiorno a tutti. Sarà un tormentone questo accento sul tuo nome, vero? Non sono il primo a sbagliare. Sì, va bene, Natalia, ma non importa, benissimo così. Vabbè. Allora, Euraxess è un'iniziativa congiunta della Commissione Europea e di 40 paesi, e quindi i 28 stati membri più una decina di altri paesi cosiddetti associati. E ogni paese ha quindi un coordinamento, quindi nel nostro caso appunto siamo noi come Fondazione CRUI coordinatori Euraxess per l'Italia. L'obiettivo di questa iniziativa è migliorare l'accesso alle carriere scientifiche in Europa e allo stesso tempo migliorare ovviamente anche l'accesso e le informazioni relative alle opportunità di lavoro nella ricerca che esistono nei paesi europei che aderiscono a questa iniziativa. Uh-huh. L'obiettivo finale ovviamente è di rendere l'Europa nel suo insieme più attrattiva. Adesso parleremo anche del tour, che è un po' l'evento del momento, però Euraxess attualmente è un portale dove si trovano tutte le informazioni, una sorta di vetrina con tutte le opportunità per i ricercatori? Esatto, lo strumento diciamo concreto operativo di Euraxess è un portale europeo che contiene diciamo tutto un po' le iniziative europee in tema di ricerca e soprattutto in tema di carriere scientifiche, ma il valore aggiunto è appunto questo portale nella sezione Jobs che offre gratuitamente un database di offerte di lavoro, di opportunità di ricerca quindi in Europa e quindi è consultabile da chiunque sia interessato a una carriera scientifica, in particolare dai più giovani che ancora magari si stanno incamminando verso questa professione, che possono consultare appunto in tempo reale le offerte che esistono, rispondere, ma non solo, possono anche pubblicare il proprio curriculum vitae e attivare degli strumenti di matching fra domanda e offerta. Quindi allo stesso tempo sia l'utente, diciamo, giovane ricercatore, dottorando, studente può consultare queste offerte, ma anche i datori di lavoro, anche le organizzazioni pubbliche e private, perché non abbiamo solo istituzioni pubbliche, non solo università enti ricerca, ma anche istituzioni private ed aziende che pubblicano le offerte, possono anche consultare i curricula vitae che sono presenti sul portale e quindi trovare il candidato, la candidata che meglio diciamo si adegua e adeguato per le competenze a quello che stanno cercando. Alcuni numeri: nel 2013 nel sito si sono registrati 950.000 visitatori, il triplo rispetto al 2010, quasi 10 milioni di pagine visitate, sono oltre 7.700 le organizzazioni di ricerca registrate nel sito Euraxess Jobs, quindi numeri importanti di un portale personalmente credo ancora non abbastanza conosciuto e qui nasce anche l'esigenza del tour che è stato avviato in queste settimane. Sì, esattamente. Teniamo presente che le offerte pubblicate sul portale, parliamo di circa 40.000 offerte all'anno, e attualmente ci sono 60.000 curricula vitae di registrati. E il tour ovviamente intende offrire ulteriore pubblicità, diciamo, a questo strumento così importante, e intende anche dare consigli ai giovani, diciamo dottorandi, studenti, per su come diciamo beneficiare al massimo delle opportunità esistenti, e anche su come per esempio consultare al meglio, come effettuare delle ricerche che possono essere fatte sia per paese che per tipologia di ricerca, e come pubblicare il proprio curriculum, e quindi questo tour, che toccherà 22 paesi e 29 località, sarà l'occasione anche in Italia per concretamente dare una mano a chi vuole intraprendere questo tipo di attività professionale. Allora, il tour toccherà l'Italia il 7-8 aprile con tappe a Trieste e a Milano, ma torneremo a ridosso della data a parlare di questo, perché mi sembra assolutamente importante. Qual è l'identikit ideale secondo te di chi deve entrare in questo portale? È un giovane laureato, è un ricercatore, è un dottorato? C'è il target ideale? Ma il target ideale ovviamente è un portale che si occupa di ricerca, quindi le opportunità non sono opportunità di lavoro in senso ampio, ma sono opportunità di lavoro nelle varie discipline di ricerca. Non ci sono preclusioni dal punto di vista disciplinare, però è chiaro che si tratta appunto di persone in genere, insomma, laureate, che vogliono o affrontare un dottorato, perché ci sono appunto, c'è anche una sezione sulle fellowship, e quindi sulla possibilità di iscriversi a un dottorato, di avere delle borse a questo livello. Sì. E poi ovviamente anche per giovani ricercatori, chiunque diciamo voglia intraprendere, trovare il posto giusto, diciamo l'opportunità giusta per la sua passione, e quindi fare della sua passione di ricerca la sua professione. E c.europa.eu Euraccess, il sito, oppure su Facebook euraccess.ontour per conoscere nel dettaglio questa campagna di presentazione. Ma ripeto, a ridosso delle tappe italiane, 7-8 aprile, riparleremo sicuramente di questo importante servizio lanciato dalla Commissione. Grazie davvero e complimenti per l'ottimo lavoro fatto. Grazie, arrivederci, buon sabato. Europostit. L'Europa cerca segretari. L'EPSO, l'Ufficio Europeo per la Selezione del Personale, ha pubblicato un bando per costituire un elenco di riserva per l'assunzione di 275 segretari. I candidati devono essere specializzati nelle lingue croato, inglese, francese e tedesco. Le attività svolte sono in generale di gestione amministrativa, ma possono variare in funzione dell'ufficio. Per candidarsi è indispensabile essere cittadini dell'Unione, avere almeno un diploma di scuola superiore ed esperienza nel settore. La scadenza del bando è il 18 marzo. Per saperne di più e conoscere anche le altre opportunità lavorative offerte dall'EPSO, europa.eu/epso/apply. Barcelona! Se lo ammettiamo, siamo un po' didascalici a volte nelle scelte musicali, ma oggi dovevamo celebrare Barcellona, perché Barcellona si è aggiudicata la prima edizione di questo premio lanciato dalla Commissione Europea. È Barcellona infatti la capitale innovativa europea, tra le varie smart cities che hanno partecipato a questo concorso. Insomma, non c'è niente da fare per le altre finaliste, che era Grenoble, arrivata seconda, ma Barcellona si è aggiudicato questo importante riconoscimento, importante perché è innovativo, importante perché è moderno, importante perché è attuale, importante perché le smart city sono il presente e il futuro delle tante città che stanno cercando di cambiare. Con noi c'è Manel San Roma, che è responsabile per le tecnologie proprio del comune di Barcellona. Barcellona. Ciao Manele, benvenuto all'Altra Europa. Grazie tante. Prima di tutto io vorrei dire che io non parlo l'italiano, ma io sono catalana, io credo che con il mio catalano mi vorrai capire. Mi sembra un buon compromesso il catalano, vai tranquillo. Manel, credo sia stata una bella soddisfazione per te a livello personale, ma per voi, perché è sicuramente questo riconoscimento significa che avete fatto un ottimo lavoro. Come mai è stata premiata Barcellona? Cosa avete di così caratteristico? Cosa avete combinato? Sì, certamente è stata una grande soddisfazione. Io credo che quello che l'Unione Europea ha visto in Barcellona è che noi abbiamo un'approssimazione alle smart city olistica insieme. Mm-hmm. Noi non vogliamo essere particolarmente buoni a una cosa concreta, ma noi vogliamo essere buoni alla gestione globale della città. E per noi la tecnologia è un strumento per portare la città ai cittadini. Certo, quindi una visione di insieme, proprio un cambiamento globale. Con quali idee di fondo? Quali sono le idee principali che sono state premiate? In cosa vi siete distinti, secondo te, oltre a questa visione olistica? Sì, per noi la collaborazione con altri... come si dicono, stakeholder, sì, altri partecipanti nella vita della città, è fondamentale. Per noi nel comune di Barcellona ha una lunga storia di iniziative per la città, ma oggi io credo che la città è più viva che il proprio comune, quindi è importante che il comune diviene soltanto un facilitatore, si può dire, un catalizzatore di tutte le iniziative della città, e per noi questo è importante. Le industrie è importante, la tecnologia non è nel comune, la tecnologia è nelle industrie, i centri di ricerca, le università sono importanti, le associazioni dei cittadini, e questo è quello che noi vogliamo mettere insieme. Questa collaborazione io credo che è parte di questa visione di insieme che la Unione Europea avrà apprezzato. Quanti abitanti ha Barcellona attualmente? Il municipio di Barcellona sono 1,7 milioni di abitanti, ma l'area metropolitana è 4,5 milioni. Mm-hmm. Sono 35 municipi. Infatti questo è uno dei più grandi problemi, perché io sempre dicono che l'ultima barriera verticale sono le proprie città. Certo. perché per un cittadino di Barcellona molte volte non sa se è in un municipio o un altro. Mm-hmm. Ma le servizi, la legge, l'ordinazione è differente nel differente municipio, e questa è una lotta che noi abbiamo ogni giorno, di fare un'approssimazione anche con tutti i municipi dell'area metropolitana. L'altra Europa. Ancora l'altra Europa, ancora in diretta da Barcellona con Manel San Roma, responsabile per le tecnologie del Comune di Barcellona, che si è aggiudicato questo importante premio, capitale innovativa appunto europea. Manel, facci un paio di esempi concreti, al di là appunto della filosofia che sta accompagnando la vostra rivoluzione digitale. Ci puoi fare un paio appunto di cambiamenti in atto? Sì, per esempio una cosa che noi abbiamo sviluppato a Barcellona è quello che noi chiamiamo il mobile ID, l'identificazione mobile. Noi crediamo che lo sportello unico del rapporto fra la città e i cittadini è il smartphone. Mm-hmm. E tutte le documenti di identità, ma anche le tessere di riconoscimento e tutto quello che noi abbiamo nei nostri, come si dice, io non conosco la parola, la cartella. Sì, comunque l'anagrafica, insomma, i certificati, sì, tutto ciò che riguarda la propria vita. Esattamente, tutto questo può essere messo in una app. Sì. E noi abbiamo sviluppato con un'azienda locale questa app che noi chiamiamo Mobile ID. che noi offriamo a tutte le città, in fatto del mondo. Noi stiamo parlando con Genova, con Bologna e altre città d'Europa, e spagnole e catalane, per offrire questa tecnologia, perché le cittadine possono avere tutto quello che ha relazione con la identità nel suo smartphone. Insomma, avere un ufficio in tasca, un ufficio portatile, un ufficio mobile, insomma, il comune che ti accompagna nella tua quotidianità. E riceverete un premio di 500.000 euro che saranno utilizzati in gran parte per lo sviluppo del sistema operativo City Host. Di cosa si tratta, in maniera semplice e sintetica? Sì, l'idea è la stessa che con un computer. Noi abbiamo nel nostro smartphone, se per esempio avete un Apple, il sistema operativo si chiama iOS, o se avete un Nokia, o avete il Windows, e se avete un telefono di Google, avete l'Android. Il sistema che permette a fare uso di tutte le applicazioni insieme. Okay. Quindi noi vogliamo sviluppare un sistema per le città, non soltanto per la città di Barcellona, ma per tutte le città che vogliono usarlo, per gestionare la città di forma totale, non soltanto la differente parte della gestione della città, il traffico, l'energia, le cittadini, ma con un software che è comune per tutti i laboratori della città. Perfetto. Noi abbiamo detto questo sistema CTOS, Operating System, Città Operating System, Sistema Operativo di Città, e noi lo stiamo sviluppando, e con questo premio noi vogliamo dare un passo avanti per offrirlo a tutte le città. Certo, europee. Un modello replicabile in tutta Europa. Grazie davvero, Manuel. Un modello replicabile. Grazie davvero e complimenti per il tuo catagliano, ha funzionato alla grande. Grazie a lei. Ciao, buon sabato. Ciao. Non sanno di più mai che cosa prega! Mamma Medea, una delle produzioni del Teatro Valle di Roma, il teatro occupato. Non era mai accaduto che il premio internazionale bandito dalla European Cultural Foundation fosse consegnato a una realtà italiana. Questo accadrà invece il 18 marzo, e il premio va appunto al Teatro Valle. Tante volte abbiamo detto, tante volte diciamo che è la cultura il vero cemento di questa Europa che sta crescendo, che sta nascendo, perché sono già passati tanti anni, ma sta nascendo giorno per giorno. Noi continuiamo a crederlo e continuiamo a puntare sulla cultura, così come fa da sempre questa fondazione belga. Diamo il benvenuto a Enrica Flores d'Arcais, del Dipartimento di Comunicazione dell'European Cultural Foundation. Ciao Enrica, benvenuta all'Altra Europa. Ciao. Che cos'è intanto questa fondazione? Quali sono i suoi ambiti di attività? Sì. Fondazione attuale, ma che ha radici nobili in tutti i sensi. Sì, esatto. Sì, allora la European Cultural Foundation è stata fondata a Ginevra nel 1954, e tra i fondatori c'erano il filosofo svizzero Denis de Rougemont, l'architetto della comunità europea Robert Schuman e il principe Bernardo d'Olanda. Sotto la sua presidenza la fondazione è stata trasferita nell'attuale sede di Amsterdam. Queste influenti persone credevano fermamente che la cultura fosse un ingrediente vitale in Europa per la ricostruzione post bellica, ovviamente, e l'elaborazione del recente conflitto della Seconda Guerra Mondiale. Mm-hmm. E da allora, diciamo, la fondazione da Amsterdam, ma comunque lavora in Europa, in tutta Europa, non solo la UE, quindi i 56 paesi europei. Sì. E lavoriamo con intellettuali affitti dall'Europa, ma anche in tutto il mondo, siamo sempre stati sostenitrici della cultura in Europa negli ultimi 60 anni. Diciamo uno dei flagship projects che sono stati iniziati dalla Fondazione European Culture Foundation è stato l'Erasmus l'Exchange Program. Sì, che l'Erasmus infatti nasce proprio da un'idea della fondazione. E, sì. Ci spieghi in sintesi il valore di questo premio oggi e perché è stato scelto proprio il Teatro Valle? Sì, ecco, il premio è un premio che ha il nome della principessa Margriet d'Olanda dei Paesi Bassi, che è stata presidente della nostra fondazione fino al 2007, per 25 anni. Sì. Quando lei ha lasciato la presidenza alla sua nipote, la principessa Laurentine, che adesso è la nostra presidente, il premio è stato dedicato a lei e il premio ovviamente sta sempre crescendo di valore e di importanza. L'abbiamo istituito a Bruxelles anche per coinvolgere la politica europea. Certo. Ogni anno vengono ospiti internazionali sempre intorno alle 400 persone, tra le quali anche quest'anno ovviamente la commissaria Androulla Vassiliou, responsabile per la cultura. Avrà luogo al Beaux-Arts, il centro delle belle arti di Bruxelles, e ci saranno persone di alto livello, certo, culturale e politico. In 30 secondi, perché il Teatro Valle? Proprio a spot. Ecco, sì, allora, brevemente, il Teatro Valle è di grande ispirazione per tutti coloro che lottano contro l'ondata di misure di austerità e di privatizzazione che adesso sta minacciando la sostenibilità di istituzioni culturali, cruciali per la vita della vita artistica e sociale. Certo. E ancora una volta, diciamo, forme collettive di azione basate sulla responsabilità offrono modelli innovativi e alternativi in molti ambiti, non solo in quelli culturali. Abbiamo dato questo premio alla giuria internazionale, tra cui anche Chris Berkon della Tate Modern e Elson Atlas. Enrica, scusa, ma ti devo salutare perché il tempo è scaduto, ma giusto il tempo di dare il sito, che è culturalfoundation.eu, per tutte le informazioni. L'Altra Europa finisce qua, l'appuntamento è sabato prossimo. Un grazie a tutta la squadra, un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Ciao! L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.